Italia in controluce. È la mattina di Radio 24, l'Italia che si sveglia, oggi è il 28 di giugno. In questa puntata torniamo in alcune città dove si sono formate recentemente le nuove giunte. Oggi siamo in Piemonte con il reportage di Maria Luisa Pezzali. Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Cambiare aria. Al di là dei luoghi comuni, ha vinto l'antipolitica, ha vinto l'astensionismo, è stata colpa degli scandali, siamo noi l'alternativa. Quello che è emerso più prepotentemente dall'ultima tornata amministrativa, nuovo anno zero delle elezioni in Italia, è stata la voglia di cambiamento. E così molte giunte non sono state riconfermate, in molti casi a vantaggio del PD, quando questo ha significato la sconfitta del PDL, in altri a favore di grillini, dissidenti, vendoliani o rappresentanti delle liste civiche. In Piemonte il PDL è collassato, il PD è diventato il primo partito con vittorie significative come quelle di Alessandria e Asti. Ma a Cuneo l'aria nuova è arrivata dall'UDC, alleato con quattro liste civiche, e a Rivalta da un candidato Notav. Ad Alessandria la giunta di centrodestra aveva portato il comune sull'orlo della bancarotta. La mia è una vittoria che va oltre l'appartenenza politica, ci dice il neosindaco di centrosinistra Maria Rita Rossa. Per la situazione che il comune ha vissuto, specie negli ultimi anni, e il sentimento diffuso di inadeguatezza del mio predecessore e della situazione tragica in cui ha lasciato l'amministrazione, siamo in una situazione di predissesto, e si può dire che non sia l'affermazione del candidato sindaco e basta, ma è l'affermazione davvero della ripresa di un'idea di politica che è confronto collettivo, che è proposta, che sappia anche andare oltre le appartenenze di parte. Qui eravamo abituati ad atteggiamenti veramente da casta. Pensi che io come primi provvedimenti ho ritirato 6.000 permessi agli amici degli amici, permessi per parcheggiare, 330 telefonini pagati dalla pubblica amministrazione. A Cuneo il centrosinistra è stato invece sconfitto da Federico Borgna, sostenuto da UDC, unica vittoria insieme a quella di Agrigento, e quattro liste civiche. Il neosindaco è stato appoggiato anche dal sindaco uscente di centrosinistra. La nostra coalizione nasce dall'idea che ci siamo fatti che la Seconda Repubblica sia finita. Crediamo che con l'avvento del governo Monti sia iniziata di fatto una fase di transizione che porterà verso la Terza Repubblica. Io credo che le prossime elezioni politiche si faranno con degli schieramenti che sono diversi rispetto a quelli ai quali siamo stati abituati negli ultimi 20 anni. E a Rivalta, provincia di Torino, dopo 20 anni di giunte di centrosinistra, a imporsi è stato un outsider, ecologista e Notav, Mauro Marinari, che ha sconfitto a sorpresa il candidato del PD. E il fatto che anche a Rivalta la politica si è allontanata progressivamente dai cittadini, dalla realtà, dai problemi, ha creato un'alternativa al sistema dei partiti e un punto di riferimento nuovo. E l'Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24 con un grande ospite musicale, Massimo Priviero, live a Radio 24, presenterà il tour di folk rock con le più belle canzoni americane degli anni 70.